La storia nasce per un articolo su Rolling Stones, che di per sé è un magazine alquanto irriverente, non il tipico magazine a cui un generale americano dovrebbe, dicono gli esperti di media e comunicazione, dare un'intervista. Ma il problema è che poi il giornale ha sfruttato queste dichiarazioni non soltanto del generale ma anche dei suoi uomini per montare questa storia. La storia, abbiamo saputo, doveva essere originariamente sul generale, su questo eroe solitario, sui suoi uomini, su questo American team che lo circonda. In realtà generale ha dato accesso al giornalista Michael Hastings per un mese. Hastings è stato con loro, con il generale e con il suo staff, e così alla fine si diventa amici, si beve una birra e scappa qualche parola di troppo. The Runaway General, il generale ribelle, e nel titolo si dice: i veri nemici del generale chi sono? Sono i mollaccioni alla Casa Bianca. E da lì in avanti le dichiarazioni sono senza limite. E ci sono attacchi diretti contro Holbrooke, che è l'inviato speciale del presidente. Si dice che ha paura di se stesso, teme di essere licenziato e dunque è un uomo pericoloso. C'è un attacco contro l'ambasciatore americano a Kabul, Carl Akenberry, che peraltro è un ex generale, e dice: cerca di coprirsi il fondo schiena con dichiarazioni negative su quel che facciamo in Afghanistan, non si è neanche consultato con noi. Un attacco a Jim Jones, il capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, e un buffone rimasto fermo al 1985, alla Guerra Fredda. Sotto attacco anche i senatori John McCain, John Kerry, che sembrano soltanto alla ricerca di pubblicità. L'unica che si salva è Hillary Clinton. Ha difeso il generale, dice, uno degli aiuti del comandante, lo ha appoggiato, gli ha dato tutto quello di cui aveva bisogno. Dichiarazioni queste che semmai hanno contribuito a irritare ulteriormente la Casa Bianca. Sentiamo di nuovo il presidente. I want everybody to keep in mind what our central focus is, and that is success in making sure that Al-Qaeda and its affiliates cannot attack the United States. Ecco, Obama, l'ho visto mentre parlava dopo una riunione di governo, ha poi ripreso la parola, ha risposto soltanto a una domanda, i giornalisti se ne stavano andando, sembrava che la riunione fosse finita, e poi il presidente ha detto: no, fermatevi un attimo, voglio che sia chiaro. Ha detto che l'obiettivo principale in questa situazione è quello di difendere la nostra stabilità in Afghanistan, di far modo che Al-Qaeda e i suoi alleati non possano attaccare gli Stati Uniti. Ci sono giovani, donne e uomini che fanno grandi sacrifici, che muoiono al fronte, famiglie che vivono questi sacrifici, e dunque ogni decisione nei confronti di McChrystal non è sull'uomo, non è su queste piccole polemiche che poi lo stesso Robert Gibbs, il portavoce della Casa Bianca, ha detto: ma qui avvengono ogni giorno, ogni ora, dentro questo palazzo ci si attacca tutti, se dovessimo affidarci ai pettegolezzi non andremmo più avanti. Ecco, dunque non è soltanto la questione McChrystal, ma è una questione che a questo punto diventa più ampia, è la strategia d'insieme e come sta procedendo l'offensiva in Afghanistan, e soprattutto se confermare o licenziare McChrystal avrà un impatto positivo o negativo sui soldati.